Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Sul fatto d'essere innamorata, Emma continuò a non nutrire dubbi. Le sue idee variarono solo sul quanto. Dapprima credette che fosse molto, in seguito soltanto un po'. Le faceva un gran piacere sentir parlare di Frank Churchill e, per amor suo, più piacere che mai vedere il signore e la signora Weston. Pensava molto spesso a lui e attendeva con impazienza una lettera dalla quale potesse sapere come stava, com'era di umore, come si sentiva la zia e che prospettive c'erano di rivederlo in primavera a Randalls. Ma d'altra parte non poteva ammettere d'essere infelice, né passata la prima mattina d'essere meno del solito disposta ad occuparsi. Era pur sempre affaccendata e serena. Per simpatico che egli fosse, poteva ben immaginare che avesse qualche difettuccio. Inoltre, per quanto pensasse a lui e, seduta a disegnare o a lavorare, formulasse una quantità di divertenti progetti per lo sviluppo e il coronamento della loro amicizia, fantasticasse di patetici colloqui e inventasse raffinate lettere, la conclusione di ogni supposta dichiarazione da parte sua era che lo rifiutava. Il loro affetto doveva sempre placarsi in amicizia. La loro separazione doveva essere contrassegnata da quanto v'è di più tenero e affascinante. Ma separarsi dovevano. Quando se ne rese conto, sentì che non poteva essere molto innamorata, giacché, a dispetto dell'antica e ferma decisione di non lasciar mai suo padre, di non sposarsi mai, un forte affetto non poteva non causare più lotte interne di quante le riuscisse di prevedere nei propri sentimenti. «Non m'accorgo di fare alcun uso della parola sacrificio», si diceva. «In nessuna delle mie ingegnose risposte e dei miei delicati dinieghi si trova un'allusione alla possibilità di un sacrificio. Sospetto che alla mia felicità egli non sia proprio necessario. Tanto meglio. Non sarò certo io a convincere me stessa di sentire più di quanto senta. Innamorata lo sono quanto basta. Mi spiacerebbe esserlo di più». Tutto sommato, era egualmente soddisfatta dell'idea che dei sentimenti di lui si era formata. «È indubbiamente molto innamorato. Tutto sta a provarlo. Davvero molto innamorato. E quando ritorna, e se il suo affetto continua, dovrò stare in guardia per non incoraggiarlo. Sarebbe imperdonabile fare diverso, visto che la mia decisione è presa. Non che lo immagini capace di pensare che l'abbia finora incoraggiato. No, se avesse minimamente creduto che sentissi quello che sente lui, non sarebbe stato così triste. Se si fosse sentito incoraggiato, il suo aspetto e il suo linguaggio all'atto di lasciarci sarebbero stati ben diversi. Comunque, è necessario che stia in guardia. Tutto questo nell'ipotesi che il suo attaccamento duri come è oggi. Ma non so se mi attendo che così sia. Non lo giudico tipo da... Non faccio nessun assegnamento sulla sua tenacia e costanza. I suoi sentimenti sono caldi, ma posso immaginare che siano piuttosto mutevoli. Insomma, da qualunque parte si affronti la questione, ringrazio il cielo che la mia felicità non sia più profondamente impegnata. Mi sentirò di nuovo bene dopo qualche tempo, e allora sarà buona cosa che sia passata, perché si dice che una volta nella vita ognuno si innamora, e io me la sarò cavata con poco. Quando la lettera di Frank alla signora Weston arrivò, Emma poté leggerla attentamente. E lo fece con una dose di piacere e ammirazione che a tutta prima le fece scrollare la testa sui propri sentimenti e pensare di averne sottovalutato la forza. Era una lunga lettera, ben scritta, che riferiva i particolari del viaggio e del suo stato d'animo, esprimeva tutto l'affetto, la gratitudine e la devozione che erano naturali ed encomiabili, e descriveva con spirito e precisione tutto ciò che di esteriore e locale poteva ritenersi interessante. Per quanto grata e stimolante questa lettera le giungesse nella parte essenziale, cioè i suoi sentimenti, quando l'ebbe ripiegata e restituita a Mrs. Weston, Emma si accorse che non le aveva portato un nuovo e duraturo calore, che poteva fare a meno di chi scriveva e che questi doveva imparare a fare a meno di lei. Nulla era mutato nei suoi propositi, anzi, la sua decisione di rifiutarlo si rinvigorì nell'elaborazione di un piano destinato a recargli conforto prima e felicità poi. L'allusione ad Harriet e le parole in cui era avvolta la bella piccola amica le suggerirono l'idea che Harriet potesse succedere a lei nei suoi affetti. Impossibile? No. Certo, come intelligenza, Harriet le era di gran lunga inferiore, ma egli era rimasto molto colpito dalla leggiadria del suo volto e dalla calda semplicità dei suoi modi, e tutte le probabilità di condizioni di vita e di ambiente erano a suo favore. Per Harriet sarebbe stata una soluzione vantaggiosa e piacevole. «Non debbo fermarmici sopra», si disse. «Non devo pensarci. So come sia pericoloso indulgere in simili riflessioni, ma cose anche più strane sono avvenute, e quando l'interesse reciproco non sarà più vivo come è ora, sarà un modo di confermarci, nel genere di amicizia veramente disinteressata, al quale guardo con gioia». Era bene avere in riserva una consolazione per Harriet, benché forse saggezza volesse che si impedisse alla fantasia di attingervi sovente, perché da quella parte minacciavano guai. Come l'arrivo di Frank Churchill aveva preso il posto del fidanzamento del reverendo Elton nelle conversazioni di Highbury, come il più recente interesse aveva completamente offuscato il primo, così ora, scomparso Frank Churchill, la questione Elton andava assumendo forme addirittura soverchianti. Si annunciava il giorno preciso delle nozze. Sarebbe presto tornato in mezzo a loro, il reverendo Elton e consorte. Non si ebbe neppure il tempo di discorrere della prima lettera da Enscombe, che già il reverendo Elton e consorte erano sulla bocca di tutti e Frank Churchill era caduto in oblio. A quel nome Emma provò un senso di disgusto. Aveva goduto di 3 settimane di deliziosa vacanza dal reverendo Elton e l'animo di Harriet, aveva voluto sperare, si era poco a poco rinvigorito. Almeno col ballo di Mr. Weston in vista v'era stata una buona dose di insensibilità per altre cose. Ma ora appariva fin troppo chiaro che la ragazza non aveva raggiunto uno stato di equilibrio tale da poter fronteggiare serenamente l'incontro, la carrozza nuova, lo squillo delle campane e tutto il resto. La povera Harriet era in uno stato d'animo indeciso che esigeva tutte le facoltà raziocinanti e vezzeggianti di Emma, tutte le attenzioni che poteva dedicarle. Emma sentiva che non avrebbe mai fatto troppo per lei, che Harriet aveva diritto a tutta la sua perspicacia e a tutta la sua pazienza. Ma era grave compito servirsi di tutte le arti della persuasione senza ottenerne nessun effetto, sentirsi continuamente dire di sì senza riuscire a far combaciare le loro idee. Harriet ascoltava umile e sottomessa e diceva che era verissimo, proprio come sosteneva Miss Woodhouse, che non valeva la pena di pensarci e che non ci avrebbe più pensato. Ma a nulla valeva cambiar soggetto. La mezz'ora successiva la ritrovava ansiosa e inquieta sugli Elton non meno di prima. Finalmente Emma l'attaccò su un altro terreno. «Questo suo lasciarsi assorbire e rendere infelice dal matrimonio del reverendo Elton è, Harriet, il peggior rimprovero che possa farmi. Non potrebbe muovermi biasimo più severo per l'errore che ho commesso. Tutta opera mia, lo so. Non l'ho dimenticato, gliela assicuro. Ingannata io stessa, ho miseramente ingannato lei. E sarà sempre per me una dura condanna. Non si immagini che corra il rischio di dimenticarlo». La prima volta che si vide Mrs. Elton fu in chiesa. Ma se la devozione poteva essere interrotta, la curiosità non poteva essere soddisfatta da una sposa nel banco delle preghiere e bisognava lasciare alle visite di rito, che sarebbero poi avvenute, il compito di stabilire se era davvero molto graziosa o solo abbastanza o niente del tutto. Emma nutriva sentimenti meno di curiosità che di orgoglio e distinzione, che le consigliavano di non essere l'ultima a renderle omaggio, e insistette che Harriet l'accompagnasse affinché il peggio della cosa fosse superato al più presto. Non poter rimettere piede in quella casa, non poter ritrovarsi nella stanza in cui 3 mesi prima s'era ritirata con uno stratagemma così inutile per allacciar lo stivaletto, senza ricordare. 1000 pensieri fastidiosi rinacquero. Complimenti, sciarade, spaventosi abbagli. Né era da supporre che la povera Harriet non ricordasse lei pure. Ma si comportò molto bene e fu solo un po' taciturna e pallidina. La visita fu naturalmente breve e ad abbreviarla tale era l'imbarazzo e tanta la preoccupazione che Emma non si lasciò indurre a farsi un'opinione precisa della signora o ad esprimerne una, oltre ai termini che non dicono nulla di elegante e molto piacevole. In realtà non le piaceva affatto. Non voleva essere affrettata nelle critiche, ma sospettava che lì non ci fosse eleganza. Scioltezza sì, ma non eleganza. Anzi, per una giovane donna, sposa e venuta di fuori, era quasi convinta che vi fosse un'eccessiva scioltezza. Figura piuttosto bella, volto non brutto, sì, ma né le fattezze, né il tono, né la voce, né le maniere erano eleganti. Emma almeno pensava che così si sarebbe dimostrato. Ma quando la visita fu ricambiata, Emma poté formarsi un'opinione definitiva su Mrs. Elton, perché vide di più e valutò meglio. Harriet, non essendo ad Hartfield, e suo padre intrattenendosi col reverendo Elton, ebbe tutto per sé un quarto d'ora di conversazione con la signora e poté tranquillamente osservarla. E il quarto d'ora la convinse che Mrs. Elton era una donna vanitosa, terribilmente piena di sé e della propria importanza, che voleva brillare e darsi arie di superiorità, ma con maniere formatesi a una cattiva scuola, sfacciate e volgari, che tutte le sue idee provenivano da una sola cerchia di persone e da un solo genere di vita, che se non sciocca era ignorante e la sua compagnia non avrebbe fatto a Elton nessun bene. Harriet sarebbe stata un matrimonio migliore. Se anche non molto intelligente o raffinata, l'avrebbe tenuto a contatto con persone che lo erano, mentre Miss Hawkins, lo si poteva tranquillamente supporre dalla sua disinvolta presunzione, era stata il fior fiore del suo ambiente. Nessuna successiva scoperta indusse Emma a ritirare il giudizio negativo su Mrs. Elton. Aveva visto bene, tutto sommato, e quale le apparve a un secondo incontro, tale la signora Elton le apparve ogni volta che si rividero. Presuntuosa, sufficiente, arrogante, incolta, maleducata. Aveva una certa bellezza e un pizzico di cultura, ma una testolina così vuota che credeva di venire con una conoscenza superiore del mondo a ravvivare e dirozzare un borgo di provincia, e si figurava che Miss Hawkins avesse goduto in società di un posto così alto che l'importanza di Mrs. Elton potesse solo superarlo. Non c'era ragione di credere che diverso dalla moglie pensasse il reverendo Elton. Sembrava non soltanto felice, ma orgoglioso di lei. Aveva l'aria di congratularsi per aver portato ad Highbury una donna che neanche Miss Woodhouse poteva starle alla pari. E la maggior parte dei suoi nuovi conoscenti, inclini alla lode e non avvezzi a guardare per il sottile, seguendo il filo della buona volontà di Miss Bates, o prendendo per buono che la sposa dovesse per forza essere intelligente e piacevole come lei stessa pretendeva, ne rimasero pienamente soddisfatti, cosicché l'elogio di Mrs. Elton passò di bocca in bocca come di dovere, non ostacolato da Miss Woodhouse, che volentieri continuò a dare il proprio contributo parlandone di buon grado come d'una signora molto piacevole e vestita con molta eleganza. Sotto un certo aspetto, la signora Elton divenne anche peggio di quanto a tutta prima era sembrata. I suoi sentimenti nei riguardi di Emma cambiarono. Probabilmente offesa dello scarso appoggio che le sue offerte di intimità trovavano, ripiegò a sua volta su se stessa e a poco divenne molto più fredda e distaccata. e per quanto gradevole fosse il risultato, il malvolere che lo produceva non poté non accrescere l'antipatia di Emma per lei. Inoltre, come il reverendo Elton, aveva nei confronti di Harriet modi sgradevoli, sprezzanti e trascurati. Emma sperava che ciò avrebbe contribuito ad affrettare la guarigione di Harriet, ma le sensazioni che quel contegno provocava avevano su di loro un influsso terribilmente deprimente. Non v'era dubbio che l'affetto di Harriet era stato rivelato nell'intimità coniugale e lo stesso era probabilmente avvenuto per la parte di Emma, presentata nella luce meno favorevole a lei e più benigna per lui. Era quindi oggetto della somma delle loro antipatie. Quando non avevano altro da dirsi, doveva essere facile cominciare a sparlare di Miss Woodhouse. E l'inimicizia che non osavano esprimere in un'aperta mancanza di rispetto trovava largo sfogo nel modo di trattare sprezzante usato con Harriet. La signora Elton prese invece un capriccio per Jane Fairfax e fin dal primo giorno. Non solo dal momento in cui l'esistenza di uno stato di guerra con una delle giovani signore poteva forse raccomandare l'altra, ma di primo acchito, e non si contentava di esprimere una naturale e ragionevole ammirazione, ma senza incoraggiamento, scusa o privilegio, sentiva l'insopprimibile bisogno di aiutarla e farsela amica. Prima di aver perso la sua confidenza e su per giù al loro terzo incontro, Emma dovette sorbire tutta una tirata della signora Elton sull'argomento. «Jane Fairfax è davvero affascinante, Miss Woodhouse. Vado addirittura pazza per Jane Fairfax. Una dolce, patetica creatura, così mite, signorile e dotata di un talento. Le assicuro che ha, credo, uno straordinario talento. Non mi faccio scrupolo di dire che suona in modo meraviglioso. Me ne intendo abbastanza di musica per non aver dubbi su questo punto. Oh, è proprio affascinante. Lei riderà della mia passione, ma parola d'onore non parlo che di Jane Fairfax e la sua situazione sembra fatta apposta per commuovere. Miss Woodhouse, dobbiamo metterci d'impegno a far qualcosa per lei. Dobbiamo aiutarla a farsi strada. È intollerabile che un talento come il suo debba rimanere sconosciuto. Immagino che lei conosca gli incantevoli versi del poeta. Molti fiori sono nati ad arrossire invano, a sciupare la loro fragranza solitari. Non dobbiamo permettere che appunto ciò si verifichi nel caso della dolce Jane Fairfax. Non ne vedo il pericolo, fu la calma risposta di Emma. E quando conoscerà meglio la situazione di Miss Fairfax e saprà qual è stata la sua vera casa, quella del colonnello Campbell e della sua signora, non penserà più, ne sono certa, che il suo talento possa rimanere ignorato. Oh, ma vive così fuori del mondo, cara Miss Woodhouse. È così oscura, così sprecata. Per quanti vantaggi possa aver goduto in casa Campbell, è chiaro che sono finiti. E credo che lei lo senta. Ne sono certa, anzi. Si vede subito che ha bisogno d'essere incoraggiata. Ragione di più per volerle bene. È una raccomandazione per me. La timidezza ha tutte le mie simpatie. E sono certa che non la si incontra tanto spesso. Ma in persone di stato inferiore è un punto di merito. Oh, le assicuro che Jane Fairfax è una creatura affascinante e mi attrae più che non sappia dire. Lo vedo, infatti. Ma non capisco come lei o una qualunque delle conoscenti di Miss Fairfax qui da noi, alle quali è da maggior tempo nota, possano usarle altro riguardo che... Oh, mia cara Miss Woodhouse, molto può chi molto osa. Lei e io non abbiamo nulla da temere. Se daremo noi due l'esempio, molti lo seguiranno per quel che possono, sebbene non tutti si trovino nella nostra stessa condizione. Noi due abbiamo carrozze per andarla a prendere e riportarla a casa. E viviamo in uno stile per cui l'aggiunta di Jane Fairfax... non ci sarebbe mai e per nessuna ragione di peso. A me spiacerebbe immensamente che Wright ci ammannisse un pranzo tale da farmi provare rimorso di aver chiesto qualcosa di più che la partecipazione di Jane Fairfax ad esso. No, cose simili non le concepisco. Né è verosimile che possa concepirle, dato come sono abituata. Il pericolo maggiore per me, nel governo della casa, è forse proprio l'opposto, quello di far troppo e non badare a spese. «Povera Jane Fairfax», pensò Emma. «Non te lo meritavi. Può darsi che ti sia comportata male col signor Dixon, ma è una penitenza molto più dura di quella che ti aspettava. La gentilezza e protezione di Miss Helton. Parola d'onore, non sembra che ci siano limiti all'impudenza della lingua di costei». Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.